Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, m'émure plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. ウサマ・ビンラディン容疑者をアメリカ政府当局が殺害したと発表しました。 ข่าวจากรัฐบาลสหรัฐยืนยันนะคะว่านายบินลาเดนแกนนำของกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะ 就是基地组织领导人本拉登之死 Da oggi il mondo è più sicuro, così il presidente della Commissione europea Barroso insieme al presidente stabile del La notizia ormai è nota, sin troppo nota, ha colto tutti di sorpresa e sembra essere costruita proprio per dare un'ulteriore accezione di fatalità, di singolarità, di realtà che si fonde con aspetti romanzeschi, per reali, come sembrava impossibile, improbabile ciò che l'effetto a cui assistemmo in televisione più di 10 anni fa, quando vedemmo degli aerei infilarsi dentro le Torri Gemelle. Ancora oggi sembra improbabile, impossibile, qualcosa che riempie le pagine dei giornali, ma allo stesso tempo non ci dà consapevolezza di cosa esattamente sia accaduto. Sapere che è stato ucciso quello che viene considerato a voce comune il responsabile principale di tutta una catena di morti, di angosce, di situazioni critiche, drammatiche che hanno scosso l'intero mondo in questi ultimi anni. La morte, l'uccisione di Bin Laden viene data dai nostri notiziari nella mattina di ieri, è arrivata prestissimo la notizia, i grandi quotidiani si rimbalzano il primato per la messa per prima nei loro siti internet, chi ha le 4:30 di mattina, chi ha le 7:30 di mattina. Comunque oggi è cresciuta perché i grandi talk della sera televisiva ne hanno parlato lungamente. Se ne parla tanto, ma poco se ne sa. Questo è l'aspetto fantastico della cosa. Si parla tantissimo di un episodio di cui sanno pochissime cose. Anzi, alcuni elementi fortemente ambigui, da una parte alimentano il settore e la genia di coloro che soprattutto in rete, in ogni effetto, in ogni azione legata a questa particolare fetta della nostra storia, pongono sempre degli elementi misteriosi, degli elementi complottistici, come ai tempi della caduta delle Torri Gemelle ci fu tutta una corrente di pensiero che portava a pensare, a immaginare, a supporre aspetti collaterali, retropensieri, strategie, misteriose segnalazioni di foto quasi profetiche che c'erano. Sull'iconografia molto si lavorò, molto si sta lavorando dalla giornata di ieri sull'iconografia legata a questo evento, all'uccisione del grande responsabile, al cattivo per eccellenza. Noi ieri parlavamo dei cattivi nel cinema e il cattivo per eccellenza nello stesso tempo veniva proclamato come morto, come ucciso. E chi naturalmente scende in piazza, festeggia, quando muore un cattivo viene distinto di fare festa, di festeggiare. Chi ci ricorda che in realtà, come fa Enzo Bianchi sulla stampa di oggi, che gioire per l'uccisione di un essere umano, fosse anche il peggiore degli esseri umani, non è un atteggiamento che perlomeno un cristiano, lo dice un abate, lo dice un uomo di alta spiritualità, non è forse la forma migliore. Un volto parzialmente sfigurato e sanguinante, senza copricapo e con i capelli arruffati, con un foro di proiettile sul sopracciglio. Questa foto, spacciata per ore come quella del cadavere di Bin Laden, è falsa. L'emittente satellitare pakistana GeoTV, che l'ha diffusa, ammette: era un falso, circolato già nel 2006 e diffuso nuovamente sul web 5 mesi fa da un sito iraniano. Un'immagine elaborata con Photoshop. La prima foto ritrae Osama Bin Laden ancora in vita, la seconda un uomo ucciso in una la battaglia in Afghanistan. L'espressione del volto è sovrapponibile a quella del secondo scatto, il profilo e l'angolazione coincidono, l'apertura della bocca è la stessa, identica alla lunghezza dei baffi e della barba. Il primo scatto fa pensare quindi ad un pesante ritocco del secondo. In poche ore la presunta immagine del cadavere del leader di Al-Qaeda ha fatto il giro di quasi tutto il mondo. E naturalmente c'era ieri chi ironizzava. Vi forniamo il set completo, il tool di elaborazione di Photoshop per uccidere un cattivo con pochi colpi di mouse. Poi su questa notizia che in realtà è circolata, ma su questa fotografia, fotonotizia che è circolata, ma pare circolasse già da molto tempo, la cui costruzione si perde nei meandri dei misteri della rete. In realtà è una foto di Bin Laden da vivo, foto ritoccata con la stessa espressione, lo stesso volto, cui sono stati aggiunti degli occhi pesti, è stato aggiunto un foro di proiettile sulla fronte, è stata elaborata in maniera molto approssimativa per chi conosce vagamente le possibilità del fotoritocco, ma anche semplicemente fotografando una delle tante foto di Bin Laden da vivo e questa da presunto morto, si capisce esattamente il lavoraccio che è stato fatto. E anche su questo si apre un'infinità di deduzioni. Era stata fatta apposta per gettare la colpa sulle finte uccisioni da parte dei sostenitori di Bin Laden, era stata fatta per una beffa, era stata presa da un archivio, era stata messa proditoriamente in circolo, o semplicemente qualcuno ha pensato che fosse l'immagine più calzante per descrivere ciò che è accaduto. Sì, perché mentre nella storia dell'umanità che noi conosciamo, tutte le volte che viene ucciso un cattivo per eccellenza, un tiranno, la prima cosa che si fa è si mostra alla folla festante il corpo del tiranno ucciso. Sappiamo qualcosa noi italiani per quelle immagini che non possiamo che non definire vergognose di Piazzale Loreto, il cadavere deturpato, vilipeso del dittatore con la sua donna, con i suoi fedelissimi, per quanto lui colpevole di atti di profonda ingiustizia verso il suo paese, una popolazione civile non dovrebbe arrivare a quegli estremi. Ricordiamo i nostri regi carabinieri quando prendevano un brigante, lo legavano come un maiale su una scala e facevano le foto per mostrare che era stato preso il brigante. E tutte le volte che ciò non è possibile c'è sempre il dubbio che ragionevolmente anche questo alimentato in rete, che in realtà il cattivo ancora una volta ce l'abbia fatta. Sul destino del cadavere del leader di Al-Qaeda le versioni sono diverse. In un primo momento si è detto che fosse nelle mani delle autorità americane, trasferita nella base USA di Bagram. Il New York Times scrive invece, citando funzionari della Casa Bianca, che il corpo senza vita di Bin Laden è stato prima portato in Afghanistan e poi seppellito in mare in una località imprecisata. Questa versione è sposata anche dalla CNN, secondo cui il cadavere del principe del terrore... 800240024. Questa mattina non pretendiamo di darvi notizie nuove in assoluto su quello che sta accadendo rispetto alla vicenda, per alcuni tratti segnata di giallo, dell'uccisione di Bin Laden. Vogliamo riflettere sull'iconografia dell'uccisione del cattivo per eccellenza. Oggi i giornali si barcamenano fra foto molto contrastanti, fra quelle classiche di Bin Laden, quelle che hanno fatto da corredo a tutti i messaggi, a tutte le comunicazioni, a quelle di coloro che agivano in suo nome, che hanno usato la rete e gli strumenti di comunicazione immediata del web in maniera così cruenta e così inaspettata per noi, gli sgozzamenti, le teste tagliate, e poi per contrasto le immagini giovanili. In particolare me ne ha colpita una che è sulla stampa di Torino, di una vacanza di teenager in Svezia, un gruppo di ragazzi e ragazze sorridenti appoggiati a una Chrysler del 1971, ragazzi vestiti come si vestivano negli anni 70, con i capelli tagliati come si tagliavano negli anni 70, e tra loro c'è anche appunto Bin Laden. Professor Giovanni Fiorentino, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Professor Fiorentino, abbiamo già sentito altre volte in trasmissione, docente di sociologia della comunicazione alla Facoltà di Scienze Politiche all'Università della Tuscia, è autore del volume L'occhio che uccide, la fotografia e la guerra, immaginario, tortura, orrori, edizione Meltemi 2004. Lei, professore, sarà fatto una prima riflessione sulle immagini che circolano da questa mattina sui giornali, da ieri in televisione, rispetto alla grande esecuzione capitale che fa gioire e giubilare tutta l'umanità. Assolutamente Assolutamente, la prima riflessione che mi viene di fare è che quell'immagine che ha fatto il giro del mondo attraverso le televisioni e attraverso internet ieri mattina è stata immediatamente smascherata grazie alla rete, immediatamente è stata disinnescata. Questo mi serve per dire che immagini montate o immagini fotografiche, che quindi automaticamente nel modo di essere costruite sottraggono piuttosto che aumentare, insomma privano del contesto. Ecco, immagini che hanno costruito la storia anche in maniera artificiale, artificiosa, grazie al dispositivo fotografico, appartengono alla storia dell'Ottocento e del Novecento. E però, grazie alla rete, immediatamente in questo caso l'immagine che ha fatto il giro del mondo in pochissimi minuti è stata disinnescata. Il dato di fatto è che anche questa mattina, però, la stessa immagine, pur essendo un falso, pur essendo una bufala, pur essendo frutto di Photoshop, questa immagine campeggia in tutti i giornali di oggi, e tutti i giornali hanno dedicato una pagina o addirittura due pagine per ragionare intorno al falso. Però mi concorderà, professore, che in realtà nel l'horror vacui della prova tangibile dell'evento, guardi, io vengo a Perugia, vivo a Perugia, sono nato a Perugia, ho vissuto a Perugia, che è una città con grandi tracce di Medioevo ancora nelle sue strade. Chiedevo da bambino a mio padre cosa fossero delle particolari attrezzi di ferro battuto con una punta agli angoli di alcune strade, seppi che servivano per infilarci le teste. Quando a Perugia c'era lo Stato Pontificio, tagliavano molte teste e le infilavano lì per far vedere i briganti, i cattivi, i nemici, che siano ben visibili qual è stata la loro fine. In mancanza della possibilità di noi uomini moderni di avere quello stesso tipo di elaborazione, che il male è stato fisicamente sconfitto, ci attacchiamo all'artificio. Denunciamo che è un artificio, discutiamo sul fatto sia stata fatta con Photoshop anni fa, ma comunque è l'unica immagine che emotivamente rassicura chi vuole che in realtà questa cosa sia accaduta. Assolutamente sì, sono d'accordo. Il Novecento è come se avesse costruito il bisogno e l'aspettativa dell'immagine, insomma. La finestra sul cortile è un film che ormai ha svariati decenni, eppure abbiamo bisogno tutti quanti di guardare a quella finestra. Quindi abbiamo bisogno tutti quanti di una fotografia che in qualche modo ci conforti, ci dia, come diceva lei, una sorta di prova tangibile. Eppure, insomma, ragionare sulla fotografia non ci fa immediatamente dire che la stessa tangibilità fotografica può essere discussa e disinnescata. La rete questo lo fa molto bene. Prima, ecco, lungo il Novecento, insomma, e gli esempi potrebbero essere infiniti, le fotografie avevano tutta la forza e la naturalità della testimonianza fotografica. Oggi la rete ci mette continuamente in discussione il fatto che chiunque possa utilizzare Photoshop, chiunque possa produrre dei falsi, dovrebbe farci ragionare sul fatto che tutti quanti possiamo essere un po' più dubbiosi rispetto alle immagini fotografiche che ci offre il mainstream, che ci offrono i grandi media di massa e che ci offre la stessa rete. Il paradosso è esattamente questo, che dell'atto più clamoroso, più eclatante e più mefitico attribuito a Bin Laden, che è la distruzione delle Torri Gemelle, esistono un'infinità di testimonianze iconografiche riprese da tutti i punti, da tutte le angolazioni della sua morte, cioè dell'atto risolutorio e fra virgolette di giustizia. Ancora non c'è nessuna prova certa e ci si attacca a una prova simulata. Sentiamo Cristian, buongiorno. Buondì, sono Cristian, grazie per lo spazio che mi date. Io mi occupo di comunicazione virale, quindi anche marketing. Sicuramente questa è un'operazione sia di marketing per l'amministrazione Obama, che ne aveva proprio bisogno, quindi guarda caso cade in un periodo, diciamo, giusto dopo le rivoluzioni post-islamiste, in un momento in cui l'amministrazione Obama ha bisogno di dare un annuncio eclatante, e poi diventa una morte virale, quindi con un'immagine che rimbalza migliaia di volte. Facebook solo ieri raccoglieva 1000+ post al secondo, e soprattutto anche con dei Trojans, quindi tu cliccavi per vedere il video della morte o dell'assalto e tutto, e automaticamente sul profilo ti appariva una foto con mi piace. Quindi non ho mai visto nulla di simile, ma proprio anche una carica virale forte. Quindi è questo, comunque, lei mi insegna che ormai è un meccanismo irrinunciabile, diciamo, sono degli attributi di cui si carica gran parte del materiale che si mette in rete, quindi difficile tenerlo fuori da questo meccanismo di consenso. Ormai in rete si mettono cose perché si contaminano con il giudizio di chi le osserva, e questo secondo me vale per le immagini belle che per le immagini che ci atterriscono. Ma lei come si spiega che, in realtà, visto che è esperto di operazioni di marketing, dice che questa potrebbe sembrare comunque un'operazione diciamo di uccisione strategica in un momento strategico, come spesso si diceva in Italia, si dice in Italia, ci sono le grandi catture di capi mafia. Ecco, ma come si spiega che non c'è stato un altrettanto efficace corredo iconografico, la cattura, il cadavere esposto, l'uccisione e via dicendo? Ci si ferma soltanto a una fotografia che anche un bambino capirebbe che è stata una taroccata clamorosa. Guardi, l'aspetto interessante di questa operazione è proprio questo. Infatti, per l'uccisione del cattivo, quindi dell'icona del cattivo, perché Bin Laden è un po' il cattivo per eccellenza, come dicevate voi prima, basta un'icona. Quindi non è necessario un'uccisione vera di un corpo vero, di una persona vera, come può essere uno di quei personaggi che citava lei prima. Per l'uccisione dell'icona del cattivo basta l'icona del cattivo ucciso. Questa cosa ha un precedente. Come per il santino, che è sempre una trasfigurazione rispetto alla persona che rappresenta, anche il santino negativo è sufficiente che sia qualcosa che rappresenti l'idea del cattivo massacrato, ecco. Assolutamente più che sufficiente, anzi la sua identità di icona, quindi di immagine taroccata, di immagine data in pasto alla massa, alla rete, è assolutamente coerente con il messaggio che si vuole veicolare, quindi assolutamente in stile con quello che si vuole fare. Sentiamo Paolo. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Io voglio intervenire come esperto, ma non dirò niente di più. La mia tesi è molto semplice. Esperto di cosa? Di cose che riguardano aspetti militari, non solo. Ah, bene, di intelligence e azioni di questo tipo. Io le posso assicurare di per certo che l'intervento con dei commandos addestrati di questo tipo avviene solo per prelevare una persona e poterla poi successivamente interrogare e da questa ottenere altre informazioni sensibili. A livello massmediatico l'iconografia è necessaria perché deve dare due segnali. Da una parte quella per assicurare una popolazione come quella di tutto il mondo, diciamo occidentale, che aveva bisogno di questa rappresentazione della sconfitta del male. E dall'altro un segnale importante per far capire che chi sbaglia no, non ha scampo in nessuna parte del mondo. Quindi lei, da esperto, ci farebbe quasi intendere assolutamente sì, 100%. Ci fa intendere fare righe che in realtà non sarebbe stato ucciso, è stato assolutamente l'intervento con i commandos, che sappiamo di che commandos parliamo. Assolutamente. Uomo di questi costa milioni e milioni di dollari. Serve o per la liberazione di ostaggi o per prelevare, come è stato fatto a livello internazionale e nazionale, l'operazione di polizia chirurgica, persone che possono rilevare altri aspetti di un certo tipo di rete. Senti, lei come si spiega, visto che spetto approfitto di lei, del fatto come accade per i capi mafia, che uno si accorge sono sempre stati per 30 anni accanto al paesello dove sono nati. Anche Bin Laden in fondo era a pochi chilometri da dove tutti immaginavano che potesse essere. È molto semplice, l'abbiamo visto con un arresto che è avvenuto ieri, sapete a cosa mi riferisco? Sì, a un esatto, si trovava esattamente dove? Sì, più o meno nel suo paese. Ok, allora, qui ragioniamo in logica a un nazionale. Capo di malavita organizzata, stiamo dicendo. Dove tutti lo cercavano, esattamente lui era collocato nei luoghi dove è stato detto anche stamattina nella trasmissione che l'ha preceduta, nei luoghi dove l'avrebbero ricercato e dove c'era un certo tipo di copertura, perché parliamo di aspetti molto delicati che hanno dei riflessi anche internazionali. Beh, copertura, però, stava in un bunker in mezzo a altre case, era come dire, era come il deposito di zio certo, Paperone a Paperopoli. Se io io devo estirpare il male con un'operazione chirurgica che effettua solo col bisturi, faccio un bombardamento a tappeto ed estirpo il male. Se ho bisogno di andare a fare con un'operazione chirurgica di polizia, secondo me questo è l'aspetto più importante e benefico che si dovrebbe capire, prelevare il male per poter essere poi trattato in modo che riveli altre teste, perché come sappiamo l'organizzazione era ramificata a livello internazionale, questo è necessario ed è necessario. Quindi lei dice se il fine era giustiziarlo sarebbe stato molto più semplice distruggere il bunker e finiva lì. Dalla mia esperienza, non lo so, non ho contatti, dalla mia esperienza Bin Laden non è stato ucciso, non sarà mai ucciso, perché c'è la necessità, come è stato realizzato in tutti questi anni, di compiere un intervento di polizia internazionale che possa poi avere risvolti non solo in Pakistan o in Afghanistan, ma in altri luoghi. Solo una cosa mi lascia perplesso, tanto ognuno può esprimere il suo parere, nessuno di questi ha certezza, è lecito anche che una persona che ha esperienze in questo campo ci dica il suo punto di vista, che rispettiamo tanti altri. Ma come giustifica che una notizia data con questa certezza da un presidente degli Stati Uniti possa rischiare di essere mai smentita, che qualcuno un domani dica ma perché hai detto che l'hai ammazzato quando in realtà lo tenevate nascosto per sapere da lui informazioni? Non è un rischio troppo grosso questo, il funerale in acqua, il seppellimento islamico, tutto quello di cui stiamo parlando, non è un rischio troppo grosso rispetto all'opinione pubblica, al fatto che qualcuno poi un domani, non sarà mai possibile dare la notizia che in realtà non è stato ucciso? La necessità contingente di alcuni momenti della storia impone la previsione di essere poi smentiti dopo diversi decenni. Abbiamo visto cosa è successo con WikiLeaks, sì. E tutto quello che è stato trattenuto e non divulgato a livello planetario aveva un senso contingente strettamente pregnante nel momento in cui è accaduto, non aveva più senso 30-40 anni dopo. Ci sono momenti storici in cui è necessario anche compiere questi tipi di... Noi prendiamo, dando possibilità a tutti di esprimersi con attenzione e con curiosità, la lettura del nostro ascoltatore, al quale non chiediamo di più rispetto alle sue competenze, intuiamo che siano nel campo comunque, quello appena descritto, delle operazioni di polizia mirate alla cattura di elementi pericolosi, che ci dice che secondo lui un'operazione del genere è un'operazione per catturare una persona, non per ucciderla. Per ucciderla ci sono sistemi molto più veloci. Saluto il professor Giovanni Fiorentino, che so che è una lezione, diamo la linea all'informazione della borsa, ci sentiamo tra un istante. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Macchie di sangue ovunque, sul pavimento di questa camera da letto, col tappeto macchiato di rosso, completamente messa a soqquadro, e in quest'altra stanza, che nel disordine generale lascia intravedere un angolo cottura, oggetti sparsi e computer rotti. È qui che per anni ha vissuto Osama Bin Laden, qui si è nascosto dal resto del mondo che lo cercava, fino a ieri, quando le forze speciali americane lo hanno trovato uccidendolo con un colpo sparato alla testa. Non la cattura, ma la morte, questo era l'obiettivo dei 14 Navy SEALs, forze speciali di elite piombati sul fortino in elicottero. 800240024, questa mattina stiamo riflettendo sull'iconografia, perlomeno su quella a nostra disposizione, relativa all'uccisione, all'esecuzione cosmica di Osama Bin Laden. Ci hanno fatto riflettere due nostri ascoltatori nella prima parte della trasmissione. L'uno è esperto in marketing virale, dice che in realtà il fatto che di questo episodio sia stata presentata una foto tarocca, una foto simulata, una foto ricostruita attraverso il fotoritocco, non cambia nulla. In realtà nel mondo della rappresentazione c'era bisogno comunque di una rappresentazione verosimile del cattivo ucciso. E come, questa è una mia sottolineatura, il santino è un'immagine trasfigurata che rappresenta le virtù eroiche della persona che rappresenta, è sempre più giovane, è sempre più bello, è sempre splendente il santo quando è rappresentato nella sua iconografia. Anche il cattivo nella sua iconografia può essere simulato, rappresentato in maniera fotoritoccata. Il cattivo ucciso deve essere esattamente come quell'immagine oggi infatti su tutti i giornali, tutti sanno che è falsa, ma con la pretestuosità di mostrare l'immagine falsa, ci fanno vedere l'immagine che più appaga il nostro desiderio di vedere il cattivo giudiziato, desiderio che a volte viene messo anche sotto riflessione da vari appelli. Ho citato appunto Enzo Bianchi, ma l'atteggiamento generale di tutti i cristiani, dire sì, è bene, ma non si festeggia per una persona uccisa in ogni caso. Poi anche rispetto alla vicenda, un altro ascoltatore che si dice esperto in vicende di operazioni di polizia ci fa notare come sia singolare che un'operazione del genere che viene fatta per catturare di solito una persona per ottenerne delle informazioni sia stata invece un'operazione che abbia ucciso una persona. Lui dice per ucciderlo era molto più semplice bombardare quel luogo, annientarlo e via dicendo. Secondo lui, secondo questo ascoltatore, ma che si fa portavoce di una idea che ormai serpeggia in tutto il mondo, non è stato ucciso, è stata simulata un'uccisione, un funerale velocissimo, stranamente con dispersione del cadavere in acqua perché nessuno abbia più, quando in realtà la prima operazione che si fa quando si uccide un cattivo è di esporne il cadavere, di dare segno alle popolazioni che il male è stato sconfitto. Altra vicenda, come avete sentito, legata al luogo. Oggi ci ha fatto sempre lo stesso ascoltatore notare che come il boss numero 2 dei Casalesi è stato arrestato nella sua zona, addirittura vicino al comando di polizia, Bin Laden è stato ucciso, preso, comunque intercettato in Pakistan, in un luogo che tutti sapevano frequentato comunque da lui o perlomeno che abitualmente aveva l'eco della sua presenza. Andiamo avanti nella riflessione che stiamo facendo sull'iconografia che abbiamo a nostra disposizione per decifrare o per spiegarci quanto questo episodio appaghi la nostra sensibilità contemporanea, con due ospiti di cui uno l'abbiamo sentito pochi giorni fa. Cristian Uva, buongiorno. Buongiorno. Cristian Uva l'abbiamo sentito proprio ieri, anzi, sulla trasmissione dedicata ai cattivi nella storia del cinema. Questa mattina ti richiamiamo per parlare del cattivo dei cattivi. Cristian Uva, ricordo che è docente di storia del cinema al DAMS Roma 3, ha scritto Il terrore corre sul video, estetica della violenza dalle BR ad Al-Qaeda, edizione Rubettino, a cui dovrei aggiungere un capitolo nuovo alla luce di quello che stiamo vedendo. Ecco, di tutta l'analisi delle iconografie della morte dalle Torri Gemelle ad oggi, non ti sembra emblematica questa ultima immagine del corpo che non c'è, della fantasmatica Salma di Osama Bin Laden? Assolutamente sì, assolutamente coerente con tutto il percorso a puntate che con grande passione, tra virgolette, naturalmente abbiamo seguito in questi anni. In tanti, no, si sono chiesti in fondo chi fosse quel personaggio che dalle grotte o dalle montagne dell'Hindu Kush trasmetteva i suoi video. Abbiamo saputo che quei video venivano realizzati tramite trucchi, no, di natura digitale, compositing. Le grotte alle spalle di quel personaggio non esistevano, c'era soltanto un blue screen, eccetera eccetera. Quindi questo finale mi sembra del tutto organico e coerente con tutto il percorso appunto simulacrale, no? Nell'ambito della simulazione, per l'appunto, descritto e portato avanti con coerenza da Bin Laden. Sì, l'unica cosa non simulata poi sono i morti reali e concreti, come ieri fra le popolazioni festanti qualcuno dice beh, a me i miei morti non me li ridarà nessuno, perché sembra tutto una grande rappresentazione in cui il fotomontaggio, il fotoricocco, le realtà simulate facciano da padrone. Senz'altro, e c'è una suggestione che mi ha colpito subito appena ho visto questa immagine, soprattutto poi ho letto i dettagli, no, di come è stata realizzata. Non so se lo avete ricordato, ma sappiamo adesso che è stata realizzata tramite appunto il letterale fotomontaggio di due volti, da una parte la parte superiore, no, del volto. Sì, un morphing hanno fatto, hanno preso, sì certo. Sì, di un cadavere reale e la parte inferiore, bocca, barba, eccetera, di un Bin Laden vivo e vegeto in una foto di qualche tempo fa. Ecco, questa operazione è assolutamente comune oggi nell'ambito degli effetti visivi del cinema contemporaneo. È quella che io ho definito letteralmente il face-off, no? Tra l'altro face-off e face-on, cioè tu prendi la faccia da un attore, da un personaggio qualsiasi e la impianti, come si fa con la chirurgia plastica oggi, su quella di un altro essere. Un po' quello che faceva, non so se vi ricordate per l'appunto Face Off, il certo. film di John Woo del 97, no? C'era John Travolta che si faceva proprio installare, si faceva trapiantare la faccia di del personaggio di sì. Nicolas Cage. E qui, ibridando la morte e la vita, perché la morte di un cadavere e la vita di un Bin Laden all'epoca, quantomeno sicuramente vivo e vegeto, si crea questo personaggio sintetico, digitale, simulacrale, al quale dobbiamo comunque credere. Questo mi sembra un elemento assolutamente coerente con tutto appunto il percorso. Ecco, facciamo un passo avanti però. Giovanni De Luna, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Giovanni De Luna è docente di storia contemporanea all'Università di Torino, ha pubblicato tantissimi saggi, ma uno tra questi è il libro Il corpo del nemico ucciso, violenza e morte nella guerra contemporanea, edizioni Einaudi. Giovanni De Luna, stiamo ragionando sul fatto che una sorta di immagine clonata, un morphing, qualcosa che non esiste, non è mai esistito nella realtà, oggi sia l'unica prova emotiva che abbiamo dell'uccisione del corpo del nemico ucciso, ammesso che sia il nemico per eccellenza di tutti noi, Bin Laden. Ecco, questo secondo te come appaga la sensibilità contemporanea e come nel passato in realtà c'era bisogno di far vedere dittatori infilzati, massacrati, uccisi o cattivi decapitati? Ho citato prima i briganti ottocenteschi, i carabinieri impalavano su delle scale per far vedere che li avevano ammazzati. Io sposterei appunto un attimo il discorso dal simulacro, cioè dalla foto falsa, dall'immagine, alla concretezza del corpo, se è possibile sulla base delle informazioni che abbiamo, perché questo corpo appunto non fotografato è stato comunque invece buttato in mare. Allora su questo, come dire, io mi interrogherei su cosa c'è, quale universo culturale quella scelta rappresenta, perché insomma noi lo sappiamo, il corpo del nemico può essere o rispettato o profanato. Quando lo si rispetta siamo dentro le guerre simmetriche in cui, come dire, i francesi si prendono cura dei cadaveri dei tedeschi, i tedeschi si prendono cura dei cadaveri dei francesi, penso alla guerra del 1870. Sì, ma una cavalleria che non esiste più in questo tipo di guerra, non è mai esistita. Quella dimensione della guerra simmetrica, con delle regole, con delle cose tra stati nazionali, cioè, non c'è più. E come dire, si è aperto un altro tipo di rapporto col corpo del nemico ucciso, che è quello della profanazione. Allora, la profanazione può avere due aspetti, o la cancellazione o l'esibizione. L'esibizione, siamo dentro l'universo che forse prima avete citato, cioè il nemico degradato a bestia, come una sorta di trofeo di caccia da esibire. Penso sì, le foto dei briganti che avete citato, ma insomma l'icona del Che Guevara steso sulla cosa, e poi lui viene mostrato come una Ceausescu, ne abbiamo un'infinità di questi. Sì, di questi. Sono anche altri significati, penso per esempio ai corpi dei partigiani impiccati con il cartello "ha osato colpire in arma la decima", quella era, come dire, chiedere a quei corpi la legittimazione istituzionale che la Repubblica di Salò non aveva, quindi era una sorta di prova di forza all'interno del quale il corpo del nemico veniva usato come una sorta di codice di leggi. Per quanto riguarda invece la cancellazione, qui siamo nel caso della cancellazione, il corpo è stato eliminato ed è stato buttato in mare. Beh, quello, come dire, l'aspetto più ovvio della cancellazione è la fossa comune, cioè tu butti il cadavere, il corpo del nemico ucciso in una fossa comune come se fosse una discarica, come dire, l'equivalente del corpo spazzatura. Che però la fossa comune restituisce nel tempo memoria. Pensa alle foibe, che è stato cancellato dalla nostra memoria storica. Se ne eri saputo qualcosa quando sono fuori le foto, sono andati a cercare i morti, ma anche le fosse di Katyn, tutte le varie grandi eccidi di cui non si ha prova finché qualcuno non va a riscavare i morti. In questo caso è stato reso impossibile il ritrovamento di ogni residuo organico di Bin Laden, buttandolo in mare. È la cancellazione del nemico, diciamo, no? Quindi, e perché è così pesante la cancellazione del nemico? Perché lo è in particolare quando il corpo viene cancellato in mare in questo modo? E perché, come dire, una tomba è quello che rende possibile l'elaborazione di un lutto. Lei pensi ai desaparecidos in Argentina, dopo 30-35 anni quei lutti non sono stati elaborati, in assenza del corpo, in assenza di una tomba intorno a cui raccogliersi e piangere, il dolore non viene elaborato, il lutto, l'Argentina si porta dietro una ferita permanente in quella direzione. Quindi io credo che questa, perché anche allora venivano buttati in mare proprio perché non ne rimanesse traccia, il mare è la forma. Questa modalità di cancellazione appunto non favorisca sul lungo periodo la possibilità di, di una memoria pacificata. Sarebbe una memoria inquieta, lacerata, ferita, che si raccoglierà intorno a quel corpo. Ci dobbiamo fermare, scusi Giovanni Luna, soltanto un istante, mi chiedono la linea per le informazioni del traffico, fra un minuto restiamo nuovamente insieme. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt. Ci eravamo interrotti con lo storico, docente di storia contemporanea Giovanni De Luna, riflettevamo appunto sulla scomparsa del corpo del nemico ucciso, che è qualcosa di molto singolare. In questa fattispecie Giovanni Luca è singolare anche la, secondo me, un po' forzato inserimento nel rispetto di una liturgia di funeraria, al fatto che ce l'abbiamo buttato in mare perché così prevede la legge islamica. I giornali oggi sono pieni di vignettine in cui è descritto come appunto viene in questo caso inumato il corpo secondo appunto il precetto islamico. Ma io ricordo che però qualcosa di diverso, ricordo il vecchio Priamo che va a supplicare Achille per riottenere il corpo massacrato del figlio Ettore per ridargli la giusta sepoltura. Non c'è niente di tutto questo, secondo me non c'è stato assolutamente nessuna idea nemmeno lontana di questa cavalleria che lei ha citato prima, che il corpo del nemico ucciso è qualcosa che comunque vada restituito perché sia pianto. No, soprattutto non c'è niente della tradizione islamica, perché sia l'Islam sia la religione ebraica, come dire, sono per esempio molto contrari alla cremazione, sono molto legati all'integrità del corpo e sono legati alla pratica dell'inumerazione, del seppellimento come unica pratica lecita. Quindi, come dire, buttarlo in mare è esattamente il contrario di questo tipo di precetto che, le ripeto, si trova sia nella religione ebraica che in quella musulmana. Però, come dire, soprattutto perché non è morto in mare, è morto in terra. Fosse morto in mare uno poteva anche capire. Certo. Dietro questa pratica però c'è comunque un universo culturale. Io credo che, insomma, quello che sostengo è che il modo con cui viene trattato il corpo del nemico ucciso ci dice molto su che tipo di guerra si sta combattendo. In questo caso, come dire, è chiaramente questa una guerra proprio totalmente post-novecentesca, in cui non c'è un territorio, non ci sono confini nazionali, non ci sono stati nazionali, non ci sono eserciti nazionali. Come dire, tutto è, come dire, affidato ai flussi di una globalizzazione che sorvola il territorio, che fisicamente ogni tanto precipita sul territorio, ma non appartiene a un territorio definito. E questo, in questo caso, mi dispiace averla interrompere così bruscamente, Giovanni De Luna, ma la sigla ci dice che dobbiamo lasciare la linea. In questo caso anche l'iconografia di questa morte, che si basa su elementi non certi ma totalmente simulati, sembrerebbe essere giustificata. Grazie Giovanni De Luna, grazie Cristian Uva, grazie a quanti ci hanno ascoltato. Melog 2.0. Alors tous deux on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.